primi alboni al tramonto del sole stringer sempre vorrei la bella destra, io già son pago dei. Convien che lasci ancora la sua parte ad Armago e Oronte. Che parli? Questa mano ad ambi io già concessi. E così mi derivi, ambo depressi, cadran sotto il mio piede, e te fatali ai fulmine dell'ira. Perché si sdegna, affè che gli delira?